Radio 24 Reportage. L'industria della carità di Valentina Furlanetto. There comes a time when we heed a certain call and the world must come together as one. È il circo dell'umanitario. Il motivo per cui si chiama circo è che ci si trova a vivere in una comunità di espatriati che si ricostruisce un mondo artificiale anche fatto di grandi eccessi. Eccesso di droghe, gioco d'azzardo, ogni tipo di eccesso. Trasparenza non c'è, questo è il primo fatto. Assodato. Il secondo fatto assodato che a volte, spesso, non c'è neanche l'efficienza. Quando sono stata presa per fare una consulenza su un certo problema che era anche molto scottante, quello della violenza nelle scuole del Chad, quello che io sono costata è finito in un cassetto, punto. Il terzo settore non è più piccolo e poco strutturato. Vale 67 miliardi di euro in Italia, il 4,3% del PIL, quanto la moda. Alcune ONG hanno bilanci di oltre 40 milioni di euro. Non è più artigianato quindi, ma industria, anche nel suo senso migliore. Le ONG sono diventate più professionali, ma il rischio è che dal profit assumano anche i difetti. Al World Economic Forum di Davos di fine gennaio 2013, ad esempio, è stato detto che le organizzazioni non governative non sembrano oggi più davvero concentrate nella risoluzione dei problemi sociali, ma sembrano diventate grandi burocrazie. In Italia uno dei problemi è quello della trasparenza dei bilanci. Curiosamente non è obbligatorio per l'Italia renderli pubblici. L'altro grande tema è quello dell'efficienza. La Corte dei Conti, ad esempio, in un rapporto sull'efficacia dei progetti del luglio scorso, ha rilevato che su 84, 28 presentavano gravi problemi. Progetti fantasma, irregolarità nel rendimento delle spese sostenute, fondi fermi in Italia da mesi. Enrico Crespi ha lavorato come direttore progetti di una ONG in Nepal e Yemen tra il 2003 e il 2007. Il concetto è: se tu investi 100 euro per fare qualcosa, questa cosa deve renderti, se no non sei efficiente, ma renderti nel senso di dare dei benefici reali ai beneficiari. Dici, cioè, quindi fanno tutti dei grand training, delle grandi cose con scarsissima efficacia. Poi ti dico, io li conosco, quindi... Cioè, casi di questo tipo c'è a bizzeffe. Noi lavoravamo a Kavre, in un'area del Nepal, sopra di noi, nei villaggi sopra di noi, lavorava Save the Children Norway. Allora, loro hanno lavorato lì 5 anni, hanno speso 200.000 euro per creare una rete di asili. Dopo 5 anni cosa è successo? Che il poco personale che era formato localmente nei villaggi se lo sono presi, se lo sono portati da un'altra parte. Gli asili non esistevano di fatto e siamo dovuti intervenire noi per farli. Poi non so, per dire, adesso c'è un progetto in Nepal, lo fa il Ministero degli Esteri italiano, l'Università della Tuscia e la FAO. Praticamente cos'è? È mettere degli ulivi in Nepal. L'Università della Tuscia precisa che il progetto va avanti da soli 3 anni e che all'Ateneo sono arrivati solo 400.000 euro del 1,5 milioni stanziato dalla FAO. Il professore Andrea Vannini. Sicuramente porterà alla produzione di olio d'oliva, anche perché in quelle aree è presente una specie locale, che è l'olio cuspidata, che è estremamente simile al nostro olio europea. Io sono quasi sicuro che nei prossimi 2 anni potremo avere localmente la produzione di olio d'oliva in questi distretti. Silvana è una cooperante di lungo corso. Per 20 anni ha lavorato con le Nazioni Unite e diverse ONG italiane e internazionali. Le ONG, anche quando fanno progetti di cooperazione, non è che il progetto finanziato, cioè il finanziamento copra tutto a gestione necessaria, ne copre una percentuale, l'altra percentuale la deve mettere l'ONG. Siccome questa percentuale l'ONG il più delle volte non ce l'ha, perché non fa bene fundraising o perché mille motivi, in qualche modo la deve mettere. E quindi spazio alla fantasia, capito? Cioè, in qualche modo la devi trovare. E come la trova? La trovi o dicendo che ce l'hai messa e invece non ce l'hai messa, o dicendo che hai fatto delle cose che in realtà non hai fatto, per esempio. Ok, fai il risultato di aver comprato due cose, in realtà ne hai comprata una, per esempio, questa è una delle cose. Fai il risultato di aver speso 100, in realtà hai speso 50, questo è uno. Questo per quanto riguarda proprio la, la questione, diciamo, economica, di budget delle, delle ONG. Un'altra cosa invece proprio vergognosa che riguarda tutto il sistema è proprio il costo immenso dei, degli aiuti, sia per quanto riguarda le ONG, sia per le grandi agenzie internazionali. La cosa è proprio abominevole. L'esempio ultimo del lavoro ad Haiti, ci sono dei costi che sono gli affitti, che sono come si chiama il generatore di corrente, che sono i guardiani, le macchine, eccetera, eccetera, che sono enormi. Io credo che non ci sia stato un altro periodo nella storia in cui gli uomini siano arrivati al nostro livello di cattiveria e di egoismo. E carogna con la moglie, con i figli, con gli amici, e carogna con il mondo intero. Però la domenica una zalea. Tutti che comprano una zalea per questo, per quest'altro ancora. Dato che non funziona niente, si risolve tutto con le azalee. E mi bussano alla porta. Fermano per la strada, mi corrono dietro col motorino, con la bicicletta, io stremato, che faccio? Compro una zalea per salvare bambini. Giorgio Gaber, nel suo monologo La Zalea, già parecchi anni fa rifletteva sulla necessità di porsi il problema della beneficenza. Claudio Ceravolo, presidente di COPI, illustra il punto di vista di una importante ONG. Ci stiamo appropriando sempre di più di questi temi che solo 5-6 anni fa praticamente non erano considerati, cioè sembrava che chi va a fare beneficenza per il fatto stesso di essere buono, bello e bravo non avesse nulla da rendicontare. È evidente che noi come agenti intermediari di questo aiuto allo sviluppo abbiamo l'obbligo non solo morale ma anche materiale di essere assolutamente trasparenti. Lei mi chiede a che livello siamo, non so, in una scala da 1 a 10 oggi secondo me sono attrappato. Siamo sul 2, il 3, parere assolutamente personale, però solo 4-5 anni fa eravamo a zero, insomma. Cioè io lo vedo piuttosto come un processo. Ci sono organizzazioni come la vostra, come COPI, che hanno la stragrande maggioranza, la gran maggior parte dei fondi arriva da istituzioni, governi, dall'Unione Europea, nel vostro caso in gran parte, no? E per cui le donazioni private sono una percentuale abbastanza bassa. Ed è forse lì la criticità, no? Perché invece l'Unione Europea fa degli audit molto pressanti e giustamente controlla passo certo. passo le associazioni. Invece con le donazioni private mi pare che le opacità possano essere più forti, è una mia impressione? Assolutamente ragione, assolutamente ragione. Ma c'è anche da dire, come dice giustamente anche lei, però, che le 50 euro che una signora che ha una pensione di 1000 euro tira fuori a Natale sono da quel punto di vista più importanti dei 50 milioni che vengono dall'Unione Europea dal punto di vista morale, certo, quindi bisogna assolutamente essere trasparenti. Certo, ci sarebbe bisogno di avere anche un layout, uno schema che lo rende assolutamente più leggibile. Questo non c'è, ma se ci fosse noi saremmo davvero i primi ad aderire entusiasticamente, perché lo chiediamo. Un tentativo era stato fatto con l'agenzia per le ONLUS, ma poi è stata sciolta l'agenzia, quindi. L'agenzia è stata chiusa e non esiste al momento un'authority esterna che certifichi le ONLUS e le ONG, a meno di non considerare tale l'Istituto per la Donazione, che rappresenta però solo una sessantina di organizzazioni non governative su 250. Ci sono poi altre questioni. Nel 2010 alcune ONG hanno deciso di affidare circa 6 milioni di euro a un promotore finanziario che le ha truffate ed è finito in galera. Vittime la ONG dei Salesiani VIS e il consorzio Agire, il direttore di Agire Marco Bertotto. La logica di funzionamento di Agire, come di pressoché tutte le organizzazioni di questo settore, occupandoci di aiuti umanitari, è raccolgo i fondi, li alloco immediatamente ai progetti, dopodiché il trasferimento fisico delle somme avviene a stato di avanzamento dei lavori, per cui man mano che le organizzazioni spendono i soldi, presentano delle rendicontazioni e ricevono le cifre pattuite. Questo è esattamente quello che noi abbiamo fatto nel caso di Haiti ed è quello che è corretto fare, non è la velocità di trasferimento dei soldi nel paese colpito dall'emergenza un elemento di qualità nell'aiuto umanitario. È ovvio che col senno di poi ci possiamo rimproverare moltissime cose, ma alla fine dei conti la vera realtà è che siamo stati vittime di una truffa architettata in maniera piuttosto complessa. Specifico anche, ed è l'elemento più importante, che noi non abbiamo fatto mancare un euro a quello che avevamo promesso ai donatori e ai beneficiari. Visse Agire garantiscono che tutti i progetti sono stati e saranno finanziati e tutti gli impegni con i donatori e le persone colpite dal terremoto sono stati rispettati o saranno rispettati. Gli investimenti erano presenti a bilancio 2010 di entrambe le associazioni, come peraltro è anche scritto nel libro L'industria della carità. In futuro ristampe o trasmissioni pubbliche, eventuali precisazioni pubbliche della ONG VIS o del consorzio Agire Onlus sono benvenute. Restano alcune domande che rientrano nel diritto di critica. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.